Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Affrontiamo una pagina complessa oggi, ancora una volta buongiorno da Irene Zerbini. Quali sono le nostre reazioni al terrorismo? Almeno nel mondo occidentale ci attacchiamo con incompetenza e testardaggine alle nostre analisi, alle nostre politiche fallimentari finora, e non facciamo quasi niente di significativo per le questioni, le dimensioni che stanno alla base degli attacchi terroristici che abbiamo visto finora. Questo almeno scrive Rami Khoury sul quotidiano libanese Daily Star. I suoi riferimenti sono a condizioni sociali e individuali che creano i mostri autori degli attentati. Insomma, per parlare di ISIS e terrorismo c'è sempre di più il coinvolgimento di antropologi, di psichiatri, di sociologi, quasi non fosse più sufficiente la lettura geopolitica. Certo, c'è chi cerca di cavalcare l'ansia, la rabbia che questi episodi determinano, convogliandoli in una lettura semplicistica di guerra di religione. E noi oggi coinvolgeremo un altro settore ancora, quella della negoziazione. E quello che avviene dietro le quinte a dei tavoli veri e propri con dei professionisti della diplomazia e che, se forse tornassero ad avere un ruolo di primo piano, qualche risultato almeno loro potrebbero portarlo a casa. Ma tutto ciò avverrà nella seconda parte della trasmissione. Innanzitutto buongiorno a Luigi Bonanate. Buongiorno a tutti. Luigi Bonanate è un saggista, è un docente di scienze politiche e di relazioni internazionali all'Università di Torino ed è esperto di questioni internazionali. E con lui c'è anche Eugenio Da Crema. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Distanza oggi a Beirut, Eugenio Da Crema è un dottorando all'Università di Trento e dopo anni di esperienze nella cooperazione locale lo ritroviamo come contributor, nel senso di opinionista anche per diverse testate giornalistiche, l'avete letto sul Corriere, sul Foglio, sull'Inchiesta, e così vale anche per il nostro professor Bonanate, che soprattutto ha scritto un libro dal titolo molto intrigante, Dipingere guerre. E questo è proprio il punto di partenza di quel libro, no? Perché in effetti la mia domanda iniziale è: com'è possibile, come ha detto lei adesso, che la cosa più brutta che esista al mondo dal punto di vista storico-sociale, cioè la guerra, possa aver prodotto alcune delle cose più belle della cultura umana, cioè alcuni grandi, tantissimi grandi opere d'arte, tra cui grandi quadri che parlano di guerra. Il mio tema, naturalmente, dato che io sono poi un politologo tutto sommato, non era naturalmente un punto di vista estetico, quanto piuttosto la ricerca del punto in cui si collegano, ovvero la comunicazione. I quadri di guerra sono stati quasi sempre oggetto di commessa da parte di potenti o di grandi signori, mentre oggi invece questo non succede più. Quindi la descrizione della guerra una volta era richiesta per celebrare le vittorie o per celebrare grandi stati, oggi è invece il contrario, cioè la guerra viene dipinta per far vedere quanto sia brutta. Prima quanto era bella, adesso quanto sia brutta. Ma di cose brutte ne abbiamo in effetti tante altre. Oggi ci ritroviamo invece ad avere a che fare con un'altra estetica. Parliamo per esempio del suicidio dell'attentatore. In qualche modo ha a che vedere con il voler mostrarsi, il voler divulgare, ma in questo caso forse più che un'idea, se stessi. È molto molto serio l'argomento che lei ha esposto adesso. Credo che questa sia una delle dimensioni importanti oggi per capire gli eventi terroristici, i suicidi zaidisti, perché siamo di fronte, a me sembra, più che a una strategia, in realtà ha delle forme di autosoddisfacimento, insomma, non voglio usare parole più legate alla sfera intima dell'individuo, è la ricerca del proprio piacere, insomma, del proprio piacere che chiamerei non estetico ma estetistico. Cioè qui siamo di fronte proprio a una esasperazione del bel gesto, no? Lo si diceva anche nell'Ottocento, il beau geste che cosa era? Era l'eroismo di chi già sapeva che sarebbe stato sconfitto nel suo atto eroico, ma non per questo non lo compiva. La fermo, è il momento di controllare la circolazione su strade e autostrade. Ci ritroviamo tra un istante. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Dunque, Luigi Bonanate, lei ci stava spiegando le differenze tra questo tipo di terrorismo e il terrorismo nazionalistico. È diverso? Totalmente diverso. Facciamo un esempio un po' brusco, ma per capirci. I terroristi Mazzini e Garibaldi a metà dell'Ottocento venivano considerati, dagli austro-ungarici naturalmente e anche dallo Stato della Chiesa, venivano considerati dei terroristi veri e propri, e si usava proprio questa parola allo stesso modo in cui noi la usiamo oggi. Ecco, se noi confrontiamo Garibaldi con questo 31enne tunisino-francese di Nizza, beh, ci sembra che siano mondi completamente diversi. E in effetti è. Quelli agivano per un ideale che aveva come obiettivo la costruzione di uno Stato, l'indipendenza, un modo diverso di vivere i rapporti intersoggettivi nella società. Qui siamo invece oggi di fronte non all'idea di un mondo nuovo, ma di un mondo nuovo per se stessi. Prima di tutto, l'elemento che lo muove, lei dice, è la soddisfazione. Voglio capire se Eugenio da Crema è d'accordo con questa lettura. Dottore? Dunque, sì, assolutamente sì. Non c'è, ovviamente, la persona che si fa saltare in aria nel caso del terrorista di Nizza, ma ce ne sono stati diversi negli ultimi tempi, con atti più o meno gravi dal punto di vista veramente del numero delle vittime, ma anche più o meno anche surreali. È stato dimenticato molto in fretta, ma c'è stato un accoltellamento in una stazione in Baviera, in Germania, poco tempo fa, in cui non si tratta di più guardate di generalità, si sapeva che era un ragazzo disoccupato con problemi psichiatrici di Francoforte, un tedesco al 100%, da mille generazioni, che ha accoltellato persone in una stazione appunto in Baviera aggredendo all'Akbar, e in questo modo si è autoregistrato all'interno di un filone mediatico. Si è brandizzato qualche modo, con un brutto termine che si usa oggi. No, ma è il termine migliore probabilmente, perché non dire che si è messo in un filone culturale vuol dire dare a una cosa del genere una profondità concettuale che non ha, perché semplicemente questa persona ha gridato all'Akbar, che assomiglia più a un in questo caso assomiglia molto di più allo slogan di una pubblicità che non ha un significato profondo. Questa persona probabilmente non sapeva assolutamente nulla di quello, nemmeno probabilmente anche il significato in arabo. Quando parliamo dell'attentatore di Nizza, dell'attentatore di Orlando, dell'attentatore in Baviera, loro percepiscono che non è possibile più trovare una via d'uscita da una situazione miserabile, in qualche modo. In questo modo loro cercano con un ultimo atto di fine della propria vita il modo di passare non come, passi il termine, degli sfigati, ma come degli eroi, almeno per qualcuno nel mondo. Lei, dottor da Crema, così come il professor Bonanate, sembrate concordare su un punto, e tra poco lo svilupperemo. Cioè, la religione sembra abbia poco a che vedere con quanto voi state descrivendo, che appartiene più alla sfera psichiatrica, come a dire, non ci fosse stata la bandiera dell'Islam ad attrarre in questo momento delle personalità così disturbate, probabilmente ci sarebbe stata una convergenza su altro. È così, professor Bonanate? In gran parte sì. Vorrei però precisare una cosa per quanto riguarda la religione. Intanto riprendo il discorso di da Crema, concordo con le sue osservazioni, addirittura vorrei ricordare dal nostro punto di vista l'ingenuità dell'affermazione del ministro degli interni francese Cazeneuve, che ha detto qui si è trattato di una radicalizzazione molto veloce. Questo all'indomani dei fatti di Nizza. Cos'è che lei contesta a questa affermazione? È veramente molto ingenuo un uomo politico che dica si è trattato di una radicalizzazione veloce. Ma scherziamo, siamo di fronte, ci dicono normalmente che siamo di fronte a grandi eventi storici che stanno cercando di cambiare la realtà. Si è detto anche di peggio all'indomani di Nizza, cioè frasi del tipo comunque un attentato l'abbiamo sventato durante Euro 2016. Appunto, tra l'altro non abbiamo mai, questo tutti i politici l'hanno sempre detto, ma non abbiamo mai saputo quanti attentati davvero siano stati sventati, perché un attentato sventato non c'è stato, dunque le prove che sia stato sventato sono sempre un po' in grembo a Giove. Ma il problema più grosso è radicalizzazione veloce in che cosa? In religione? Dal punto di vista appunto teologico? Ecco, questa è un'altra bella questione, perché vede, la religione è sempre in politica, è sempre stata strumento politico, non è mai la religione che decide le politiche, ma sono le politiche che utilizzano le religioni, ma perché? Perché la religione ha una presa sociale, ha una presa comunicazionale infinitamente maggiore che un raffinato discorso politico, politico-ideologico. Dunque, noi dovremmo anche riuscire a liberarci, per questo suggerirei a Casanova e a chi per lui, di liberarci dall'insistenza sull'elemento religioso, perché non è lì che si gioca la partita. E spesso nel corso di dibattiti o nella chiacchierata al bar semplicemente, si ripetono e si sentono ripetere tantissimi cliché. È stato ripreso in questi giorni questa figura e la trovo molto significativa, una vecchietta leghista. È vero, avrà ragione lei, che non tutti gli islamici sono terroristi, ma come mai tutti i terroristi che abbiamo visto in azione negli ultimi mesi sono islamici? Cosa si risponde a obiezioni di questo tipo? Beh, intanto possiamo ricordare che ci sono stati che ci sono delle stagioni, per cui una volta ci sono stati in passato tantissimi terroristi cristiani, cattolici, atei e via discorrendo. È chiaro che oggi, nel momento in cui il mondo islamico, che è poi più di un miliardo di persone, non dimentichiamolo mai, ha iniziato quel lento ma sensato e significativo cammino di rinascita, di ricostituzione, di avvicinamento a forme di benessere a cui non hanno mai potuto accedere negli ultimi secoli, un po' per colpa nostra, non dimentichiamo anche questo aspetto, ma è chiaro che oggi l'occhio del ciclone è quello del mondo islamico, su questo non c'è dubbio, e dunque della sua religione. Ma non dimentichiamo che le Brigate Rosse in Italia, erano dei buoni cattolici, Curcio era un cattolico praticante, ma non è così importante questo. Ecco, questo grazie. È proprio un aspetto dal quale dobbiamo liberarci. Eugenio da Crema, l'utilizzo della religione dunque è strumentale nella descrizione mediatica di quanto sta accadendo, secondo lei? Sono assolutamente d'accordo col professore, anche lui ha ricordato appunto l'esempio europeo, italiano, delle Brigate Rosse, ma restando sul mondo, quantomeno sul mondo arabo, se andiamo indietro fino al secondo dopoguerra, noi troviamo tipi di, tra virgolette, di radicalizzazione completamente diversi. Per molto tempo la radicalizzazione nel mondo arabo, quindi gruppi insurgenti, non c'era internet, quindi non c'era il fenomeno dei lone wolf, dei lupi solitari, ma c'erano comunque gruppi di insorgenza, gruppi che si davano anche ad atti terroristici veri e propri, ricordiamo tra tutti Settembre Nero, il gruppo di Abu Nidal, eccetera eccetera, e questi gruppi all'epoca, quando il sole che brillava dell'ideologico sul Medio Oriente, era il sole del panarabismo, del nasserismo, del baatismo, eccetera eccetera, all'epoca del socialismo, il fascino identificativo, esatto, veniva attratto da quel tipo di magnete, lei, esatto, dice, molto, che non ora a caso, non c'è più, è questo che... Esatto, non a caso molti dei più anziani leader, partiti o gruppi islamisti ancora attivi nel panorama arabo, da giovanissimi erano nasseristi o comunque panarabisti, quindi assolutamente laici, assolutamente perfino atei. E poi la guerra fredda tra Arabia Saudita e Iran, l'Arabia Saudita spenderà miliardi per controbilanciare la potenza simbolica della rivoluzione iraniana con il suo brand di Islam politico wahabita. E questo, cioè, darà... mi aiuti a semplificare, sì. Professore, lei ci tiene a non essere chiamato professore perché non insegna, è un ricercatore, benissimo. Comunque, lei dice quello che oggi troviamo e che non può avere forse il medesimo potere d'attrazione, però può creare un senso di inclusione. Esatto. È lo stato cosiddetto islamico, Daesh, quindi persone che da sole si brandizzano in qualche modo, esatto, nonostante non abbiano fatto necessariamente viaggi in Iraq o viaggi in Siria, esatto, per degli addestramenti sul campo, e hanno bisogno di condire, di contestualizzare il proprio atto, le proprie gesta, il proprio disagio con un qualcosa di più grande che provveda a quel senso di inclusione. E oggi, come dice Olivier Roy, il mercato ideologico propone questo. Lo vediamo in Belgio, lo vediamo in certe zone, in Francia, ma anche nel Regno Unito. C'è una grossa simpatia per un certo tipo di messaggio. Poi che questa si declini in una giustificazione più o meno aperta della violenza è un'altra cosa. Però c'è una grossa simpatia. Ma perché c'è questa grossa simpatia? La radicalizzazione la stiamo osservando in realtà in mille modi oggi in Europa. Si esprime soprattutto in mille brand. In Italia abbiamo un bouquet di partiti populisti di varia natura che possono avere accenti più, tra virgolette, di sinistra, accenti invece un attimino più nazionalisti. Luigi Bonanate, ha sentito questa lettura di Eugenio da Crema, è d'accordo? Sì, largamente d'accordo, ci sono delle cose che andrebbero approfondite, che so, il caso Nasser per esempio, che lui giustamente ha ricordato, è importantissimo e gravissimo, perché Nasser aveva avviato una linea di laicizzazione e di modernizzazione che, se gli fosse stato consentito di proseguirla, e gli americani furono contro, gli fosse stato consentito di proseguirla, avrebbe portato a un Islam assolutamente normale, come è stato il destino del cattolicesimo, del cristianesimo. Nel luglio scorso abbiamo assistito a un episodio pazzesco, che io trovo molto peggiore di Nizza, che è il colpo di Stato vero o falso, non mi importa, di in Erdogan, Turchia, dove noi siamo di fronte esattamente all'uso politico della religione. Erdogan nel corso degli ultimi anni ha un po' per volta continuamente stretto i freni della modernizzazione, tornando indietro di quasi un secolo rispetto alla storia della Turchia. Una società che era molto secolarizzata rispetto all'area. Non del tutto, però insomma dagli anni 20 alla fine del secolo sono stati sostanzialmente quelli della Turchia laica, che di fatti stava per entrare nell'Unione Europea, in quell'Unione Europea nella quale certamente non entrerà nei prossimi mesi o anni, perché quelle cose che sono successe noi non le sappiamo neanche tutte. Abbiamo avuto occasione di vedere dei brandelli dello scempio del colpo di Stato. Quindi la Turchia per ora si è chiamata fuori, è uscita fuori certamente dal contesto occidentale europeo. Ma questa è proprio la prova del fatto che per fare la politica che fa Erdogan ci è voluta la religione. Una volta ci voleva l'ideologia. L'ideologia, l'appartenenza politica, l'idea che il mondo si cambiasse comunque, se non con partiti, con movimenti, con aggregazioni che avevano questa radice, almeno in Occidente è sempre stato un po' così. Ma con la rivoluzione. La forma critica della politica, sì. Che è stata completamente dimenticata. Grazie per il loro tempo a Eugenio da Crema e a Luigi Bonanate. Arrivederci e a presto. Arrivederci a tutti. Grazie. È tutto molto interessante, ma di fronte allo sgomento, agli atti terroristici che si rilanciano, ogni testata e ogni organo di informazione nel mondo gettando la paura e il panico, noi ci chiediamo: la negoziazione che posto ha? E il dialogo? Dopo i fatti tragici di Parigi, Papa Francesco aveva affermato che il terrorismo nasce prima di tutto da povertà e frustrazione. Altri hanno invece espresso delle teorie completamente diverse, dicendo che non c'è una correlazione tra i due fenomeni, ma dialogare è ancora possibile con qualcuno che sia disposto a farsi saltare in aria. Eppure Medicine Sans Frontières e Croce Rossa hanno negoziato per anni coi talebani. E recentemente, vi immaginate cosa sia successo in Colombia? Dopo 50 anni di conflitto si è riusciti a portare a casa un accordo, 4 anni di negoziati, e lo affronteremo dopo, quando andremo a incontrare la nostra corrispondente straniera. E ora una pausa e poi torniamo su questo Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ma come funziona il negoziato in crisi umanitarie? Soprattutto, cosa funziona? Si chiude un occhio su cose minori per arrivare all'obiettivo finale, per esempio quello di sfamare persone, far passare camion, far passare convogli con cibo o acqua? C'è qualcuno che questo lo fa. Ed è proprio un'attività, una professione. Oggi due di loro sono nostri ospiti. Francesca Dell'Acqua, buongiorno, benvenuta. Buongiorno e grazie Irene per l'invito. Francesca Dell'Acqua ha lavorato per diverse organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite all'OSCE, all'Unione Europea, ed è un esperto della materia NATO, proprio esperto di mediazione. Ha agito in diversi continenti, in Asia, in Africa, nell'Europa dell'Est, in Indonesia, in Nigeria. Sto snocciolando alcune delle situazioni che l'hanno vista protagonista, dottoressa. E con noi c'è anche Giovanni Scotto. Buongiorno. Salve, buongiorno. Giovanni Scotto, a sua volta, un esperto di questo tipo di tematiche, è un settore professionale, lui dice, all'Università di Firenze, ha a sua volta collezionato tutta una serie di esperienze in teatri difficilissimi. Francesca, comincio da lei per chiederle proprio che cos'è, se dovesse definirla, la negoziazione. Sì, prima di tutto la negoziazione è un processo ed è un processo che richiede la partecipazione delle diverse parti, quindi già questo ci dice che ci deve essere una volontà di entrambe le parti di volersi sedere a negoziare, e questa è proprio la difficoltà più grande, proprio quella di chiamare le parti ad un tavolo, a sedersi per poter in maniera tranquilla e serena, tra virgolette, portare i propri bisogni, perché di questo parliamo, dei bisogni, non delle posizioni, o è questa è la teoria che ci avvicina di più ad una soluzione che porti alla soddisfazione di tutte le parti che poi si siedono al tavolo, perché se tutte le parti non sono soddisfatte, il rischio è quello di poi ricadere ancora una volta nel conflitto e quindi dover poi richiedere la volontà di tornare a questo tavolo. Ma ci sono scuole, punti di riferimento? Tutti ci riferiamo appunto ai grandi guru della negoziazione che vengono poi dalla scuola di Harvard. Fisher è stato uno dei grandi, l'abbiamo perso qualche anno fa, novantenne, e tutta la sua scuola poi ha fatto sono stati riferimenti all'interno delle varie situazioni, sia nell'ambito economico che nell'ambito proprio delle gestioni dei conflitti, anche nel campo della cooperazione o delle grosse difficoltà, e anche in campo militare. Io insegno anche alla NATO e quindi porto poi anche questi principi all'interno di un'organizzazione politico-militare come la NATO. Sicuramente questi sono i nostri riferimenti. E non viene mai accolta con diffidenza questa sua possibilità di insegnare l'avvicinamento tra parti che sembrano antitetiche, lontanissime? Certo, diciamo che all'inizio c'è un certo sospetto, mi vengo guardata con molto sospetto, poi si inizia ad ascoltare, si inizia questo percorso e si capisce che effettivamente se vogliamo delle soluzioni che sono durature, vediamo che soltanto quando appunto c'è un processo che è ben condotto possiamo avere dei risultati che poi sono duraturi, quindi questo implica sicuramente un lavoro molto grande, e tra l'altro il campo di battaglia più difficile è proprio quello personale, proprio quello quotidiano con il proprio partner, con la propria famiglia, dove le emozioni diventano molto preponderanti e il nostro ego appunto ha grosse difficoltà a cercare di trovare delle soluzioni attraverso un dialogo, ma intende invece imporre la propria posizione perché abbiamo bisogno di affermarci personalmente. Nei suoi corsi, dottoressa Dell'Acqua, lei parla con tantissimi giovani cooperanti o aspiranti tale e insegna loro delle vere e proprie tecniche, per esempio per superare un checkpoint, per superare l'ostilità a un checkpoint, in cui si intrecciano morale, volontà, voglia, obiettivo finale di aiutare in situazioni difficilissime le popolazioni, per esempio a far passare un camion di viveri. Esatto. Per fare un esempio molto, molto banale ma molto quotidiano, la credibilità è data anche dall'esperienza sul campo che lei ha avuto. Ricorda situazioni difficili che poi si sono, certo, sbloccate magari per un accorgimento, un'attenzione, una tecnica di negoziazione applicata bene? Sì, in questo momento appunto mi viene in mente una situazione in cui lavoravo con un poliziotto delle Nazioni Unite che veniva da un'altra nazione non europea, La difficoltà era quella appunto di capire il contesto. Stiamo parlando di Timor-Leste in questo momento, parlo di tantissimi anni fa, Timor-Leste nel 99, quando questo piccolo Stato stava cercando appunto di costituirsi come nazione, di essere riconosciuto a livello internazionale, e lavorando appunto con un poliziotto delle Nazioni Unite, il contrasto nasceva dal fatto che con la mia formazione, che è anche di diritti umani, di ascolto, questo poliziotto faceva fatica a capire come interfacciarsi con la popolazione locale su questo contesto, e la credibilità veniva dal fatto di presentare appunto con molta tranquillità, senza voler mettere la mia posizione in primo piano, ma con molta pazienza far capire a questo poliziotto come funzionava il lavoro in quel contesto, e poi magari fare riferimenti anche ai suoi ai suoi capi, perché poi attraverso quello, cioè quindi esponendo il mio punto di vista, spiegandolo con pazienza, ma poi facendo riferimento anche a quelli che erano i suoi riferimenti, i suoi capi, per poi avere credibilità anche all'interno della sua linea di comando. Quindi ci vuole molta conoscenza anche dell'interlocutore con cui stiamo parlando. E voi avete detto nel corso dei vostri corsi, che tenete tra l'altro anche all'ISPI, che chiunque, anche un guerrigliero con tanto di bandoliera di cartucce appesa al collo, quando sta negoziando sta portando il suo passato, le sue paure, perché tutti sono intrisi da paura, anche se non lo manifestano, le sue emozioni. E quindi è un modo quasi per dire che c'è sempre la possibilità di un appiglio, di un terreno di incontro. Giovanni Scotto, adesso coinvolgo lei, è d'accordo? Ho pensato molto a questa domanda, perché in qualche modo, no, insomma, nelle conversazioni che abbiamo avuto c'era sempre. E io credo che chi fa questo tipo di lavoro parte con una sorta di orientamento positivo, anzitutto, cioè noi ci incontriamo tra esseri umani, e gli esseri umani, lo sappiamo tutti, sono capaci di grandi nefandezze e sono anche capaci di autentici miracoli. Imparando queste tecniche non ho una garanzia assoluta che poi riesco a trovare veramente una soluzione che soddisfi tutti, che veramente anche in situazioni molto deteriorate io riesco a costruire dialogo, no? Situazioni estreme di violenza, oppure magari situazioni dove le persone sono sotto effetto di stupefacenti. Sono tante situazioni in cui magari possiamo arrivare al nostro limite, però il mio punto fondamentale è uno, ed è che se noi non esploriamo quest'area di dialogo possibile, se non ci dotiamo di strumenti proprio culturali per capire che è anzitutto possibile costruire ponti nel nostro quotidiano, nella nostra società, noi sottovalutiamo la possibilità che gli esseri umani abbiano un dialogo fruttuoso, ecco, che concreto, che porta a dei risultati. Partiamo già con la diffidenza iniziale, con l'idea che non è possibile. Lei questo l'ha sperimentato anche qui in teatri e in scenari non certo facilissimi, sto pensando alla sua esperienza per esempio in Kosovo, e colpisce anche lei nelle sue lezioni, perché poi voi trasmettete questo sapere e punta sempre sulla dignità anche dell'interlocutore, sull'attenzione. Cioè a volte un interlocutore cambia semplicemente perché gli si è dedicata attenzione. E tutti abbiamo avuto questa esperienza, tutti conosciamo qualcuno che in un certo momento della nostra vita ci è stato a sentire davvero, e questa cosa ci ha dato forza, ci ha fatto vedere le cose in modo diverso. Dare testimonianza per esempio di una ingiustizia vissuta è un passaggio fondamentale, insomma, anche nei processi di pace e di riconciliazione dopo la fine di una dittatura, perché le vittime se sono costrette al silenzio possono appassire o possono diventare aggressivi, poi no, a seconda delle situazioni. Nel caso specifico del Kosovo io ho lavorato un pochino con un'associazione italiana due associazioni italiane che hanno fatto un lavoro importante, una si chiama Associazione per la Pace e l'altra è l'Operazione Colomba, che nasce in seno alla comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini. E lì avevamo situazioni di ragazzi che per 5 anni non si erano potuti muovere dal loro villaggio di 2000 anime, un lavoro molto importante che l'Associazione per la Pace e la Colomba fecero hanno fatto negli anni, è stato mettere insieme i ragazzi serbi e quelli albanesi del Kosovo. È chiaro che noi non abbiamo trovato trovato la soluzione magica per l'assetto finale del Kosovo e l'integrazione della comunità serba. Però, viva Dio, per quella ventina di persone, trentina di persone che negli anni hanno fatto quell'esperienza di dialogo, si sono organizzati, hanno imparato delle cose, hanno fatto dei viaggi, eccetera, questa è stata una cosa importante. Allora, io credo che ci siano un po' di punti fermi su quali tutti quanti possiamo lavorare sempre, praticamente sempre. Uno è l'ascolto. Insieme all'ascolto, una cosa importante è la consapevolezza delle emozioni, perché le emozioni, è vero, ci possono ostacolare, però quando incontro una persona arrabbiata o una persona che ha paura, allora anzitutto io devo in qualche modo tenerne conto, accogliere quell'emozione. Un'altra cosa importantissima è la creatività, perché tanti problemi nostri derivano magari da una miopia, un'incapacità di progettare delle soluzioni creative alle problematiche, anche quelle semplici di vicinato, di quartiere, cittadine che noi abbiamo. Sì, ripercorriamo un po' sempre lo stesso sentiero, come dire. L'ultimo punto, velocemente? È l'apprendimento. Noi siamo al mondo probabilmente per imparare, e imparare non si finisce mai, e se riusciamo a metterci in quella posizione umile di una persona che sta cercando di imparare, di capire cosa succede intorno a sé, possono succedere tante cose, posso veramente raggiungere una consapevolezza di me stesso, dei miei contesti, molto maggiore di quando sono, appunto, in maniera arrogante, mi metto in cattedra e dico cosa è giusto e cosa è sbagliato. Grazie a Giovanni Scotto per aver illustrato tutte queste grandissime potenzialità. Francesca Dall'Acqua, concludendo, ci sono altri elementi che potrebbero aiutare chiunque in questo processo? Forse un'attenzione anche proprio all'ascolto attivo, perché molto spesso noi pensiamo che l'ascolto significhi sto zitto, sto in silenzio e ascolto. Certo, è anche questo, è avere la capacità di stare zitti ed ascoltare, ma è anche la capacità di porre le domande nel modo giusto per ottenere delle risposte. Quindi stimolare anche questo dialogo, stimolare la persona o le organizzazioni ad entrare in contatto con noi e ad esporci quelli che sono i propri bisogni e i propri interessi, perché ritorniamo appunto alla teoria di riferimento, che è proprio quello di scendere dalla nostra posizione e invece dire cosa abbiamo bisogno. Ritorno all'esempio, e con questo concludo, dei due fratelli che vogliono l'arancia e c'è una sola arancia in cucina, quindi si combatte per avere l'arancia finché appunto si chiedono: ma tu che cosa hai bisogno? Uno ha bisogno di farsi una spremuta e l'altro ha bisogno di avere la buccia dell'arancia per farsi una torta. Quindi con la stessa ed unica arancia si possono soddisfare due bisogni. È molto significativo questo esempio che ha fatto, ma d'altronde sono insegnanti molto creativi Giovanni Scotto e Francesca Dell'Acqua. Nel corso delle loro lezioni vengono proiettate non solo queste teorie che arrivano da Harvard, ma anche film che vedono come protagonista Al Pacino nella veste di allenatore, o i Monty Python, o addirittura i Pirati dei Caraibi. Hanno un modo di coinvolgere i giovani decisamente efficace. Grazie per il vostro tempo. E noi continuiamo con l'ultima parte di Spunti di Vista. Spunti di Vista. I mille aspetti dell'attualità. Che sia una giornata radiosa, questo è il mio augurio. Dunque ancora un saluto da Irene Zerbini. Oggi con noi ci sarà un'altra persona, un'altra giornalista in grado di portare sull'Italia e in Italia uno sguardo diverso, perché da tanti anni vive in Italia, però ha un'altra cultura. Saluto, do il benvenuto a Mary Villalobos. Hola. Hola. Senti Mary, noi ti abbiamo scomodato perché tu con le tue corrispondenze raggiungi 450 milioni di persone in America Latina, cioè quello che racconti tu nella tua televisione, che fa parte di Radio Cadena Nazionale, però ha due circuiti, uno che si estende all'interno del perimetro della Colombia e un altro che va in tutta l'America Latina. È particolarmente importante. Sei colombiana e noi oggi vogliamo parlare con te di negoziazione, anche perché abbiamo approfondito quanto possa essere importante proprio nel tuo paese, lontano dagli scenari in cui si concentrano i riflettori della stampa mondiale. È successo qualcosa di storico quest'anno, è passato anche qui, però forse un in sordina rispetto all'importanza del fatto. Lo dici perfettamente, perché comunque è una svolta storica non solo per la Colombia sino per l'America Latina perché diciamo che finalmente si è messo punto finale a una guerra di più di mezzo secolo che ha prodotto più di 6 milioni di vittime, 260.000 morti, 170 civili, e quindi il governo... Ma diciamo il fatto, non l'abbiamo ancora nominato, il 23 giugno è stato firmato a L'Avana un accordo storico sul cessate il fuoco tra le FARC e scioglimi tu l'acronimo di FARC. Cosa vuol dire? È Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, che è la guerriglia più longeva in assoluto. E il governo, colombiano, in questo caso il presidente Juan Manuel Santos. Ecco. I negoziati, e a me questo preme, erano iniziati a L'Avana nel novembre del 2012. Oggi abbiamo parlato di quanto è importante un negoziato. Perché? Perché è importante? Perché un accordo può arrivare se si ha la pazienza? Cioè la pacificazione di un conflitto iniziato più di 50 anni fa. Raccontacelo. Infatti i negoziati sono durati 4 anni, diciamo, di conversazioni. Questo diciamo che era il quinto tentativo di quando questa guerra fratricida è cominciato, e finalmente c'era comunque anche una congiuntura politica, nel senso che la FARC, la guerriglia, che non si era resa conto prima che il muro di Berlino era caduto, e comunque c'era un deterioro militare anche loro del potere economico suo e militare loro, e anche il governo si è reso conto che senza firmare un accordo di pace sarebbe impossibile un futuro per la Colombia, quindi c'è stata una decisione politica e non elettorale. C'è questo... Ma quello che è interessante è capire la difficoltà e man mano il progressivo avvicinamento delle parti. Per esempio, perché è stato importante che questo accordo, questo tavolo di negoziato si aprisse proprio a L'Avana? Perché avevamo bisogno proprio di un distacco del paese, perché in questo conflitto c'erano interessi, c'erano clientelismi politici, e comunque la guerriglia era vicina politicamente alla Habana, e l'Habana ha fatto una mediazione importante, anche le Nazioni Unite, anche Norvegia e anche Cile sono stati mediatori, testimoni internazionali, perché queste conversazioni, se fosse nel paese in mezzo alla mezzo della guerra civile, sarebbe stata impossibile. È molto interessante cogliere anche questi aspetti. Quali sono stati, secondo quanto è stato poi reso noto, perché a volte parte delle negoziazioni in realtà non si conoscono, i punti su cui si è dovuto discutere di più? Si erano punti algidi come che loro, la guerriglia, doveva comunque rinunciare al narcotraffico, che era uno, diciamo, dei suoi mezzi di finanziamento. Ma in cambio cosa è stato concesso? In cambio è stato concesso che loro possono partecipare in politica. Adesso, diciamo, c'è stata la firma del cese al fuoco, il cessato al fuoco, dopo sarà la firma definitiva della pace alla fine di questo mese, dopodiché loro non andranno in carcere direttamente, c'è una giustizia transizionale, diciamo un tribunale speciale per loro, per garantire che anche i crimini di guerra non rimarranno impuni, però loro possono partecipare in politica. E poi una cosa molto importante di questo accordo è che ci sono delle riforme strutturali importantissime per il paese, che prima il governo non era riuscito a farli, come una redistribuzione della terra. Questo è fondamentale. Ci sono punti davvero che meriterebbero un approfondimento, perché sono molto interessanti e sono frutto della creatività delle negoziazioni. Ci sono anche dei campi di rieducazione per i guerriglieri. E infatti, perché gli hanno concesso come parte dell'accordo 23 zone del paese per la smobilitazione, perché adesso in questo periodo comincia la vera guerra per la pace, che è la consolidazione di questo accordo. Certo, va consolidato e non bisogna fare passi indietro. Ora ti chiedo un'altra cosa, perché abbiamo poco tempo e ci interessa anche il tuo sguardo sull'Italia e cosa tu racconti dall'Italia ai tuoi connazionali. Uno dei tuoi connazionali più celebri, tra l'altro, è Gabriel García Márquez, che in Italia ha vissuto. Te ne sei mai occupata? Ho fatto un'inchiesta che è durata 2 anni per seguire le tracce del premio Nobel qui a Roma, perché diciamo della sua fascinazione per l'Italia si parla poco, no? Tutti parlano, cioè ci sono fiumi di inchiostro sulla sua vita a Messico, Barcellona, in Colombia, però lui è vissuto qui in Italia, si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Addirittura è arrivato il 30 luglio 1955 e comunque ha prodotto di qua, è vissuto soltanto 6 mesi, però 6 mesi intensissimi, ha prodotto 35 cronaca, 35 servizi dall'Italia verso il suo giornale. Perché faceva anche il corrispondente. Torniamo invece a te come corrispondente. Qual è l'aspetto della mentalità italiana che ancora oggi, dopo anni che stai qui, ti colpisce? Mi colpisce la leggerezza dell'italiano che, malgrado tutti i problemi, comunque c'ha una filosofia di vita, diciamo, non è superficiale, sino di un po' alla giornata, che viene criticato in politica perché non c'è pianificazione, però dal punto di vista della quotidianità ci fa. È un aspetto meglio. Che apprezzi. Grazie, hasta luego, Mary. Ok, buon lavoro. Ed era la voce di Mary Villalobos, una dei corrispondenti che incontriamo ogni sabato alle 8 del mattino qui a Spunti di Vista. Da Irene Zermini dunque l'augurio di un'ottima settimana, prima di tutto a chi mi ha aiutato in questo programma: Sylvie Boccaletti, Sara Spreafico, Pietro Lacorte in regia, e a tutti voi l'augurio di 7 giorni stupendi. Ci risentiamo sabato prossimo.